Undicesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia, di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, undicesimo canto. In su l'estremità d'un'alta ripa che facevan gran pietre rotte in cerchio, venimmo sopra più crudele stipa. E quivi, per l'orribile soperchio del puzzo che il profondo abisso gitta, ci raccostammo indietro ad un coperchio d'un gran davello, ov'io vidi una scritta che dicea: Anastasio Papa guardo, lo qual trasse fotin della via dritta. Lo nostro scender conviene esser tardo, sì che s'ausi un poco in prima il senso al tristo fiato, e poi noi fia riguardo. Così il maestro, e io, alcun compenso, dissi lui, trova che il tempo non passi perduto. Ed elli, vedi ch'a ciò penso. Figliuol mio, dentro da cotesti sassi, cominciò poi a dir, son tre cerchietti di grado in grado, come quei che lassi. Tutti son pien di spirti maladetti, ma perché poi ti basti pur la vista, intendi come e perché son costretti. D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista, ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale o con forza o con frode altrui contrista. Ma perché frode è dell'uom proprio male, più spiace a Dio, e però stan di sotto li frodolenti e più dolor li assale. Di violenti il primo cerchio è tutto. Ma perché si fa forza a tre persone, in tre gironi è distinto e costrutto. A Dio, a sé, al prossimo si pone far forza, dico in loro e in lor cose, come udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dogliose nel prossimo si danno. E nel suo avere ruine, incendi e tollette dannose, onde omicide e ciascun che mal fiere, guastatori e predon, tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere. Puote omo avere in sé man violenta e nei suoi beni, e però nel secondo giron convien che sanza pro si penta qualunque priva sé del vostro mondo. Biscazza e fonde la sua facultade e piange là dov'esser dee giocondo. Puossi far forza nella deitade, col cor negando e bestemmiando quella, e spregiando natura e sua bontade, e però lo minor giron suggella del segno suo e sodoma e caorsa, e chi spregiando Dio col cor favella. La frode, ond'ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che in lui fida o in quel che fidanza non imborsa. Questo modo di retro par ch'incida pur lo vinco d'amor che fa natura, onde nel cerchio secondo s'annida ipocrisia, lusinghe e chiaffattura, falsità, ladroneccio e simonia, ruffian, baratti e simile lordura. Per l'altro modo quell'amor s'oblia che fa natura e quel che è poi aggiunto di che la fede spezial si cria. Onde nel cerchio minore, ov'è il punto dell'universo in su che dite siede, qualunque trade in eterno è consunto. E io, maestro, assai chiara procede la tua ragione, e assai ben distingue questo baratro e il popol che i possiede. Ma dimmi, quei della palude pingue, che mena il vento e che batte la pioggia, e che s'incontran con sì aspre lingue, perché non dentro dalla città roggia sono ei puniti, se Dio le ha in ira? E se non li ha, perché sono a tal foggia? Ed egli a me, perché tanto delira, disse, l'ingegno tuo da quel che sole, ovver la mente dove altrove mira? Non ti rimembra di quelle parole con le quai la tua etica pertratta le tre disposizion che il ciel non vole, incontinenza, malizia e la matta bestialitade? E come incontinenza men Dio offende e men biasmo accatta? Se tu riguardi ben questa sentenza e rechiti alla mente chi son quelli che su di fuor sostegnon penitenza, tu vedrai ben perché da questi felli sien dipartiti e perché men crucciata la divina vendetta li martelli. O sol che sani ogni vista turbata, tu mi contenti sì quando tu solvi che non men che saver dubbiar m'aggrata. Ancora indietro un poco ti rivolvi, diss'io, là dove di cusura offende la divina bontade e il groppo solvi. Filosofia, mi disse, a chi la intende, nota, non pure in una sola parte, come natura lo suo corso prende dal divino intelletto e da sua arte. E se tu ben la tua fisica note, tu troverai, non dopo molte carte, che l'arte vostra quella, quando pote, segue, come il maestro fa il discente. Sì, che vostr'arte a Dio quasi è nepote. Da queste due, se tu ti rechi a mente lo genesì dal principio, convene prender sua vita e avanzar la gente. E perché l'usuriere altra via tene, per sé natura e per la sua seguace dispregia, poi chi in altro pon la spene. Ma seguimi oramai, che il gir mi piace, che i pesci guizzan su per l'orizzonta, e il carro tutto sovra il coro giace, e il balzo via la oltra si dismonta. Fine dell'undicesimo canto dell'Inferno.